Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati qui su Radio 24. Nessun luogo sarà lontano anche quest'oggi, pronti a raccontarvi un pezzettino di mondo. E vi ricordo quindi la squadra: Mire Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Robby Scaltriti alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi: 349-238-6666 per i vostri sms, nessunluogo@radio24.it per le mail, e ci trovate, ormai lo sapete, su Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e su Twitter Nessun Luogo 24. E la prima parte della trasmissione la dedichiamo al grande sconfitto dell'ultima crisi siriana, Kofi Annan. With our serious, purposeful and united international pressure, including from the powers of the region, it is impossible for me or anyone to compel the Syrian government in the first place. Kofi Annan, ex inviato ormai, perché mancano pochi giorni a fine agosto, rimetterà il suo mandato, ex inviato dell'ONU per la Siria, ha dato appunto le dimissioni. Ho fallito, dice Annan, perché non ho avuto l'adeguato supporto. Aggiunge che Assad dovrebbe andarsene per il bene del suo popolo, ma insomma ha definito la sua missione una mission impossible, una missione impossibile. Ascoltiamo insieme il commento di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, a cui do il mio buongiorno e benvenuto. Lucio, buongiorno. Buongiorno a voi. Come possiamo leggere questa sconfitta di Kofi Annan? Era attesa o in qualche modo, secondo te, vi erano margini veramente per giocare un ruolo in questo delicato equilibrio siriano? No, per Kofi Annan personalmente e per le Nazioni Unite in generale non vi era alcun margine, per il semplice fatto che due potenze del Consiglio di Sicurezza, Cina e Russia, prendevano e mantengono posizioni diverse rispetto alle altre tre potenze principali, quelle con diritto di veto, cioè Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Quindi attivare le Nazioni Unite senza un consenso in Consiglio di Sicurezza e senza prospettive di realizzare questo consenso era una partita già persa. Ecco, Lucio, in molti analisti da tempo ormai si interrogano sull'efficacia delle azioni delle Nazioni Unite con questi veti blindati che fondamentalmente in molte occasioni blindano, legano le mani. Abbiamo visto tutti le immagini dei caschi blu, no? Degli osservatori militari che si muovevano con una, diciamo, una timidezza che non era adeguata al teatro in cui si muovevano. Qual è il destino dell'ONU? Che ruolo può continuare a giocare in crisi così delicate? Può giocare un ruolo solo nella misura in cui quelle cinque potenze sono d'accordo, altrimenti può giocare solamente dei ruoli minori o può giocare il ruolo di guadagnare tempo, ma certamente non un ruolo risolutivo. E parliamo di tempo, l'ultima domanda che volevo farti è questa: sfreghiamo la sfera di cristallo, che cosa vedi per il futuro della crisi siriana? Siamo in una posizione di stallo, se vogliamo, nel senso che Aleppo continua a resistere e da molti è stata invocata come la battaglia campale, quella che darà la svolta, che farà girar pagina alla crisi siriana. Che cosa ti aspetti delle prossime settimane? Mi aspetto che forse a un certo punto Assad se ne vada, ma mi aspetto anche che questo non risolverà la crisi, perché le divisioni all'interno della Siria sono talmente profonde e la sfiducia fra le varie parti in conflitto talmente radicata che si può immaginare forse qualche tregua, ma difficilmente si può immaginare che invece la Siria resti unita e pacificata. Uno scenario bosniaco non è affatto da escludere. Grazie allora a Lucio Caracciolo per il tuo intervento, buona giornata, buon lavoro. A voi, grazie. E cambiamo decisamente pagina, gentili ascoltatori. Vi ricordo che ci potete raggiungere al 349-238-6666 con considerazioni, commenti e domande, e lo potete fare anche su Facebook, ce l'ho qui davanti agli occhi, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Cambiamo pagina, dicevo, andiamo in Europa, andiamo in Francia. Partiamo da un articolo di Le Monde di ieri che andava in realtà a citare un'intervista rilasciata dal ministro dell'interno Manuel Valls, ministro dell'interno francese nel nuovo governo di Hollande, che in qualche modo ha scompigliato le carte, perché ha prefigurato smantellamenti dei campi Rom in territorio francese. Una dichiarazione che ha sorpreso parecchi, perché insomma si diceva: ma come, il ministro di sinistra che va a ripercorrere le orme di Sarkozy? Due anni fa un discorso a Grenoble proprio di Nicolas Sarkozy innescò, lo ricorderete gentili ascoltatori, ce ne occupammo anche noi, era proprio in questi giorni, proprio ad agosto, un'incredibile spirale di smantellamenti di campi rom, poi espulsioni dalla Francia con anche un contributo economico, e poi questo strano, bizzarro ping pong che veniva delle carovane dei rom tra i vari paesi europei. Oggi cercheremo di capire se quello spettro che in qualche modo sembra essere evocato dalle dichiarazioni di Manuel Valls, come dire, se è uno spettro che possiamo prefigurare o meno, e quali sono invece le risposte che l'Europa dovrebbe dare alla complessa situazione Rom. Do intanto il mio benvenuto a Diana Pavlovic, che è vicepresidente della Federazione Rom e Sinti Insieme. Pavlovic, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo sentito alcuni minuti fa, perché poi era impegnato in intensi lavori parlamentari, il senatore del PD Pietro Marcenaro, che è presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani proprio al Senato, nonché presidente della Commissione politica al Consiglio d'Europa. E abbiamo iniziato la nostra conversazione proprio chiedendogli quali dovrebbero essere le soluzioni a livello europeo riguardo alla minoranza rom. I rom, noi in Italia, li guardiamo in Italia, è un fenomeno molto piccolo, sarà un po' meno dello 0,2% della popolazione, si valuta che siano circa 150.000 in tutta Italia, forse, sì, perché anche qui i dati non sono certi, anche questo è un altro segnale. Ma in Europa tutti sanno che i rom sono la più grande minoranza europea. Sì. Stiamo parlando di circa 10-12 milioni di persone, no? Sì. Quindi è una cosa molto importante. L'Unione Europea e anche altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa hanno fatto quindi della questione dei Rom uno dei punti delle importanti loro politiche, proprio perché è una questione difficile. Nessun paese ha delle soluzioni facili, quindi questo dovrebbe già far capire che bisogna avvicinarsi con forte determinazione, con dei forti valori dentro questa questione, ma anche con realismo e pragmatismo. Ecco, però, senatore, la interrompo, cioè, stiamo al pragmatismo. Lei che cosa chiede all'Europa? Cioè, una volta che il campo viene sgomberato, le risorse che nel quadro delle politiche sociali europee ci sono delle risorse dedicate alla questione, diciamo, ad affrontare questo problema dei Rom, a costruire delle alternative ai campi così come oggi sono, a portare avanti con più forza di quello che oggi viene fatto i processi di scolarizzazione dei bambini e di avere delle prime iniziative che riguardano il lavoro. In parte vuol dire destinare in modo diverso le risorse che già oggi vengono utilizzate, non è che l'Italia non spenda niente, cioè l'affrontare la questione dei Rom sotto il segno dell'emergenza ha comportato l'investimento di risorse. Sì. Diciamo il Comune di Roma, per fermarsi a un punto diciamo importante italiano, ha speso molti e molti milioni di euro per smantellare i campi che poi si riformavano, si ricostruivano, eccetera. Bisogna che queste risorse siano indirizzate diversamente, e a queste bisogna aggiungerne delle nuove che devono essere messe a disposizione per vari programmi, che sono programmi che riguardano l'abitazione, che riguardano l'istruzione, che riguardano il lavoro. E poi c'è un'ultima questione che secondo me poi è un po' la cerniera di tutto. Io non ho mai visto una comunità progredire senza che si formasse un'elite. Cioè, sto parlando di una rappresentanza, di persone capaci di organizzare la partecipazione, capaci di essere tramite di un processo di una dialettica difficile, di un'elite. Un'elite, quello che è un'elite. Le faccio un esempio. Quante persone in Italia oggi, in un modo o nell'altro, lavorano sul tema dei Rom, nei comuni, negli enti locali, nei campi di volontariato, ma persone che ricavano un reddito anche da questa cosa, un vero e proprio lavoro, no? Io non lo so esattamente, ma credo che siano molte centinaia. Lei provi a pensare se ci si proponesse che nel giro di 5 anni la metà, non dico tutti, di queste persone che lavorano sui Rom siano Rom. E si facesse un programma di formazione di uomini e di donne soprattutto per fare questo lavoro. Pensi a cosa vuol dire sulla scuola, ad esempio. Io quello che ho visto è che dove gli esperienti di scolarizzazione precoce, che sono quelli essenziali, cioè portare i bambini molto piccoli dentro la scuola, non hanno funzionato, è perché le madri sono state coinvolte e hanno svolto un ruolo. Nessun luogo è lontano. Ma là aussi, il faut des critères simples. il faut que la justice et les principes s'appliquent. Les préfets ont pour mission de démanteler les campements de Rome. E da questa dichiarazione stiamo partendo quest'oggi, gentile ascoltatore, in un'intervista a Europe 1 che ha rilasciato Manuel Valls, in cui dice: se c'è una sentenza, se c'è una decisione della giustizia, i prefetti la faranno rispettare in Francia e smantelleranno i campi, come già era avvenuto 2 anni fa. Che cosa significa? Se per esempio un campo è occupato abusivamente, è un campo privato, allora i prefetti faranno rispettare. Insomma, se il sindaco ritiene che non vi siano le condizioni igienico-sanitarie, allora quel campo verrà smantellato, con tutte le conseguenze possibili che abbiamo già visto appunto 2 anni fa. Torno alla mia ospite, che è Diana Pavlovic, vicepresidente della Federazione Rom e Sinti Insieme. Come avete accolto questa intervista, queste dichiarazioni di Manuel Valls voi in Italia? Beh, diciamo con indignazione, ma in fondo non con una grande sorpresa, ecco, per dire la verità, perché sostanzialmente quello che è la nostra esperienza negli ultimi anni in tutti i paesi europei, quasi tutti i paesi europei, è che nei momenti di crisi, nei momenti di crisi della politica, crisi economica, quello che succede è che un po', diciamo, la politica un po' se la prende sempre con i Rom. Cioè, lei dice un po' il grande capro espiatorio: quando c'è crisi si parla alla pancia, si cavalcano battaglie fortemente ideologizzate. Esattamente questo. E dunque non diciamo, in questo momento, in una crisi europea, diciamo, siamo preparati abbastanza psicologicamente a tutto, ecco. Insomma, mi sembra, come dire, il tenore di disillusione del suo tono è abbastanza evidente. Devo dirle, Pavlovic, che io sono assolutamente d'accordo con lei per ciò che riguarda la lettura di 2 anni fa, no? Perché Sarkozy si preparava alla campagna elettorale e cercava in qualche modo di cavalcare certi sentimenti, evidentemente poi sbagliando, perché la campagna elettorale è andata come sappiamo. Invece più stupore forse ha creato questa improvvisa svolta, no, di Manuel Valls, perché insomma anche durante l'intervista nella radio francese si è detto: ma come, lei è di sinistra o di destra? Alcuni lo assimilano al Sarkozy di sinistra, quindi forse è più difficile in questa situazione leggere le implicazioni politiche, diciamo, meramente politiche. Ma torniamo ancora su questa discussione sui Rom con i nostri ospiti. Le controverse e criticate dichiarazioni del ministro dell'interno francese Manuel Valls, che prefigurano possibili espulsioni, non solo smantellamenti dei campi Rom. Perché espulsioni? Perché dobbiamo ricordare che esiste un regime transitorio per i cittadini rumeni e bulgari in Francia, che fino a gennaio del 2013 sono considerati cittadini extraeuropei. Che cosa significa? Che quindi i Rom rumeni e bulgari, se sottoposti a smantellamento di campo, potrebbero anche essere espulsi. Questa situazione riguarda precipuamente ed esclusivamente la Francia, ma è bene ricordarlo, perché appunto il caso francese 2 anni fa, come ricordavamo, ha dato luogo a quel triste ping pong di carovane di Rom tra un paese europeo e l'altro. Volevo tornare con la mia ospite Diana Pavlovic, vicepresidente della Federazione Rom e Sinti Insieme, non prima per parlare dei campi, che poi il nodo cruciale per ciò che riguarda il caso francese è quello, non prima di aver sentito di nuovo l'opinione proprio sui campi del senatore Marcenaro. Le voci preoccupate che si sono levate in Francia da parte di tutto il mondo dell'associazionismo, da parte di gran parte dei socialisti, ma anche da parte di giornali come Le Monde, che guardano a queste cose con una certa prudenza e obiettività, dovrebbe dire che ovviamente il rischio che si ripetano esperienze fallimentari già fatte in passato è un rischio molto forte. Tenga conto che, come lei sa, Hollande, durante la sua campagna elettorale, rispondendo specificamente a una domanda che era stata fatta su questo punto, aveva scritto una lettera alle comunità rom francesi, impegnandosi al fatto che non ci sarebbero state sgombere e demolizioni di campi senza proporre una soluzione alternativa, no? Perché il punto è questo: i campi, io guardo la realtà italiana, ma che probabilmente è ancora più grave da questo punto di vista di quella francese, no? I campi rappresentano in molti casi situazioni di vita inaccettabili, per per mille ragioni, e anche noi nel rapporto che abbiamo fatto al Senato ne abbiamo parlato come vere e proprie discariche, sì, in molti casi, cioè posti invivibili. Quindi che ci si proponga di superare quei campi è una cosa del tutto ragionevole, ma nessuno può proporsi di superare quei campi senza proporre un'alternativa. E qui c'è, alla base, c'è un grande equivoco, no? Cioè, in fondo, questo nome che viene spesso usato di nomadi, no? Sì. È come se autorizzasse a pensare che non è un problema offrire una soluzione, perché tanto sono nomadi e quindi andranno da un'altra parte e se la cercheranno loro, no? Ma il nomadismo in realtà invece tutti sanno che non esiste più da molto tempo, se non per piccoli gruppi molto ridotti. Quindi il punto è questo, vale in Francia come vale in Italia, che quando si decide di mettere fine a delle esperienze inaccettabili come quelle di certi campi, bisogna farlo in primo luogo discutendo e coinvolgendo quelle persone interessate, no? Sì. E senza presentarsi lì come se appunto con come operazione di polizia ed emergenza, però oltre a questo c'è il problema di trovare soluzioni, e queste soluzioni sono soluzioni che possono essere trovate, naturalmente. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche il superamento dei campi, di questi campi, richiede una gradualità. Diana Pavlovic, come si supera il problema dei campi rom? Come si coinvolgono queste persone che, ricordava il senatore, comunque sono una minoranza, cioè non facciamo di tutta l'erba un fascio, insomma. Certo. Ma io mi trovo molto d'accordo con il senatore Marcenaro, dall'altra parte queste sono le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia, che da anni fa l'Italia, e dall'altra parte insomma diciamo che dobbiamo imparare tutti quanti a capire quando delle politiche non funzionano e trovarne delle altre. Abbiamo la certezza ormai tutti che la politica degli sgomberi, oltre ad essere costosissima, è anche inutile e rende la vita delle persone precaria e ancora più precaria di quello che insomma lo è vivendo in queste baracche. Che bisogna iniziare un lavoro superando le dissidenze di queste. Se concretamente, io parlo da Milano, e dunque sì. Che a Milano negli ultimi 5 anni le popolazioni rom rumene che vivono nelle baracche, che sono migliaia di persone, hanno subito 540 sgomberi. Sì. Questi 540 sgomberi sono costati all'amministrazione intorno a 5 milioni di euro, e queste persone sono ancora, no? Sì. Sul territorio milanese. Dopo 550 sgomberi, 540 sgomberi, andare lì e dire guardate, vi offriamo un percorso, venite in un centro di accoglienza, non è proprio così facile. Sì. No? Bisognerebbe un po' recuperare questi rapporti, cioè dare un po', responsabilizzare da una parte le persone che ci vivono, perché poi ovviamente all'interno di queste baracopoli c'è di tutto, no? Certo, e cioè lei dice insomma, capire su chi si può investire, insomma. È un discorso di una costruzione, di un dialogo, e forse anche di creare una nuova cultura sulla quale innestare il ragionamento. E la logica dell'emergenza, fino adesso attuata in molte situazioni, l'abbiamo visto non solo in Italia ma anche appunto in Francia 2 anni fa, e chissà se adesso si tornerà in quella situazione. Certamente, dicevo, la logica dell'emergenza non aiuta. Questa la fotografia sulla questione Roma. Grazie Diana Pavlovic per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie. E cambiamo pagina decisamente e andiamo a Belfast. Se ci avete seguito anche le prime puntate, gentili ascoltatori, vi ricorderete che proprio in apertura di questo ciclo di Nessun Luogo Lontano vi avevamo fatto menzione di quella dichiarazione ufficiale recapitata a un quotidiano nordirlandese di Ria Lira e della Republican Action Against Drugs, due gruppi repubblicani armati, costole della vecchia IRA, quella dei Troubles degli anni 70, che non hanno accettato il processo di pace, che ancora impugnano le armi e che tuttora fanno azioni armate nelle sei contee del nord dell'Irlanda. Ebbene, stiamo cercando di capire meglio, al di là degli aspetti propagandistici, perché ricordiamo sono in corso le Olimpiadi, quindi dichiarazioni di questo tipo, come dire, danno buona visibilità, cerchiamo di capire meglio che cosa c'è dietro a questa fusione dei principali gruppi cosiddetti dissidenti repubblicani armati, e l'abbiamo chiesto a uno che di queste cose, insomma, se ne intende, le studia da parecchi anni, Dominic Bryan, che è docente alla Queen's University a Belfast e si occupa di fatti irlandesi. Ascoltiamolo. Well, it looks like this is groups coming together that haven't. Sembra che questi due gruppi si siano uniti, cosa che non avevano mai fatto prima. Tuttavia ci sono ragionevoli indizi che questi gruppi avessero dei buoni contatti anche prima, e in particolare la Ria Lira e la Republican Action Against Drugs a Derry. Non credo che questa sia una grandissima sorpresa, e c'è preoccupazione costante per la situazione della sicurezza. Non sono sicuro che la situazione in corso cambierà radicalmente, però ci potrebbe essere un buon aspetto in tutto questo. Se i gruppi si riuniscono, ci potrebbero essere negoziazioni politiche più facili con loro. Quindi alla fine non credo che la situazione potrebbe diventare radicalmente più insicura. E fra l'altro, gentili ascoltatori, mentre vi stiamo parlando è in corso una massiccia operazione di polizia a West Belfast, nell'ovest della città, perché i servizi di sicurezza sono alla disperata ricerca di un mortaio che avrebbe sparato alcuni colpi su una pattuglia della polizia la settimana scorsa proprio al Belfast. Questo, come dire, dà la misura di quanto quella crisi sia ancora irrisolta e di quanta potenza di fuoco ancora dispongono i gruppi repubblicani armati. Do intanto il mio buongiorno ad Alessia Lai, caporedattore a Rinascita. Alessia, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Giampaolo. Allora Alessia, stiamo cercando, come spesso facciamo noi Nessun Luogo Lontano, di tirare le fila della complessa questione nordirlandese. La prima cosa che però ti chiedo, una fotografia, un'istantanea, perché sei tornata da poco da quello che è il grande happening, di controverso happening di Belfast, sono le parate orangiste, quindi il grande simbolo britannico che tanto fa indignare gli irlandesi. Che aria tirava a luglio a Belfast? Tirava l'aria che tira ogni anno in occasione del 12, cioè le parate, come dici tu, orangiste, la parata dell'orgoglio orangista. È un momento nel quale si respira una forte tensione a Belfast, è un momento nel quale si capisce quanto la comunità repubblicana cattolica si senta isolata all'interno della propria città. È un momento nel quale si percepisce come loro, i repubblicani, si sentono ancor più cittadini di serie B, perché è il momento in cui esplodono le violenze di strada, i riots che ogni anno, insomma, affliggono alcune zone della città, in particolare il quartiere di Ardoin, e il tutto è causato dalla volontà, dall'insistenza di una loggia orangista nel passare al ritorno dalle grandi parate, insomma nel passare di fatto all'interno di un quartiere cattolico. Questo dà l'idea, insomma, sia dell'incapacità purtroppo dei britannici di capire quanto questo possa essere percepito come un affronto da parte della comunità cattolica, e di quanto questa comunità cattolica viva con sofferenza e con rabbia quello che è percepito come un affronto. So go on home, British soldiers, go on home. Have you got no bloody homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. Go on, home, British Soldiers, così recita questa canzone dei Wolftones, se non erro, era uno dei tanti inni che i repubblicani adottano nella costruzione della loro letteratura, della loro retorica anti-britannica. Retorica che assume però connotati militari, perché lo stiamo ricordando, se ne parla poco, ma a Belfast ancora oggi si spara e si muore. Vi stiamo raccontando di come i principali gruppi repubblicani abbiano annunciato di unirsi. Riguardo a questo, è interessante notare come il Republican Action Against Drugs, in sigla RAD, che è un nuovo gruppo, se volete, la sua missione precipua non è tanto quella di lottare contro Londra, contro il potere britannico precostituito, ma è molto semplicemente quello di ripulire le strade di Derry, che è una grossa cittadina a un'ora e mezza di macchina da Belfast, dai trafficanti di droga. E quindi in qualche modo sembra abbastanza bizzarro come un gruppo che ha, come dire, un approccio, definiamolo sociale, passatemi il termine, vada a prendere a braccetto la Real Ira, che invece da sempre combatte contro Londra e combatte contro il potere costituito. Ho fatto questa domanda a Dominic Bryan, che insegna storia irlandese alla Queen's University a Belfast. The Irish Republican Army of all sorts have seen themselves as the legitimate bearers of arms in Ireland. L'IRA da sempre si pone come forza di polizia legittima sul territorio. Quindi la Republican Action Against Drugs, assumendosi funzioni di polizia a Derry, sta esattamente svolgendo il ruolo di polizia contro i trafficanti di droga. Quindi non credo che ci sia una grande contraddizione. È il loro modo di tentare di guadagnare un supporto popolare. È il loro modo di tentare di essere visti come la legittima forza di polizia a Derry. Quindi non credo che in questo contesto quello che fanno sia contraddittorio. Anzi, è in accordo con la generale politica di rimozione della presenza britannica sul territorio. Chi invece non ha sottoscritto questo statement, questo annuncio dei gruppi repubblicani, è Continuity IRA. E so che non è facile districarsi nel dedalo delle sigle dei vari gruppi repubblicani, ma Continuity IRA, che già il nome lo dice, rivendica la continuità con i Provisional IRA degli anni 90, non ha accettato di unirsi, e ho chiesto sempre a Brian come mai, secondo lui, come mai Continuity IRA non fa parte di questa nuova unione dei gruppi repubblicani. It's difficult, to be honest, it's difficult to be completely clear on what's taking place and the Continuity IRA. Per quanto riguarda Continuity IRA, è difficile dire cosa stia accadendo. Dobbiamo ricordare che negli ultimi tempi non c'è stata una grandissima attività da parte di questo gruppo. Teniamo conto che questi gruppi non hanno più lo stesso supporto che aveva invece Provisional IRA negli anni 90. Per loro è molto più difficile commettere atti violenti e trovare supporto popolare nelle zone in cui operano. Sebbene io non sottovaluterei la serietà di questa minaccia, siamo comunque molto lontani dall'essere nella situazione in cui operava Provisional IRA. E quindi questa è la situazione dei gruppi repubblicani che appunto lottano ancora contro il potere britannico. Alessia Lai, caporedattore di Rinascita, si occupa di fatti nordirlandesi da un po', è appena tornata da Belfast. C'è un capitolo che volevo aprire con te, che è quello dei prigionieri repubblicani, che in qualche modo è molto delicato ed è cruciale. Perché, Alessia? Sì, perché vorrei partire proprio dalle parole del professor Bryan. È verissimo, è vero che non è una sorpresa l'unione di questi gruppi e che è improbabile pensare a un'escalation rilevante, insomma, delle azioni tra virgolette di guerra dei gruppi dissidenti. Tuttavia, come dicevi tu, c'è da tenere in conto la questione dei prigionieri repubblicani e delle condizioni nelle quali vengono tenuti nelle carceri di fatto britanniche, che fanno molta presa fra i repubblicani nordirlandesi. L'ultimo caso rilevante è quello di Marian Price, che è un ex militante dell'IRA, che venne condannata per le bombe al tribunale di Old Bailey a Londra nel 73 venne incarcerata, fece un hunger strike e poi venne liberata grazie a un perdono reale. Ecco, Marianne Price poi dagli anni 90 è diventata una delle voci più autorevoli del movimento repubblicano che si oppose ai ricordi del Venerdì Santo, quelli per intenderci, insomma, che hanno portato lo Sinn Féin a far parte poi successivamente del Parlamento di Stormont. Marianne Price è adesso ricoverata in ospedale, ma è stata in carcere per un anno di isolamento, prima nel carcere maschile di Magaberry e successivamente nel carcere femminile di Hydebank, e ad oggi si trova in condizioni molto gravi e la sua detenzione è percepita dalla comunità repubblicana nordirlandese come una detenzione senza processo, assolutamente ingiustificata, di una donna che ormai è in condizioni psicofisiche gravissime. Ecco, questa politica britannica da molti analisti viene, come dire, condannata non tanto. Tanto possiamo ragionare, come dire, sul rispetto dei diritti umani e ci mancherebbe altro, però viene detta come poco efficace, perché in qualche modo, insomma, non si capisce perché i servizi segreti inglesi, la polizia nordirlandese alla fine vada a creare questi personaggi che diventano degli eroi, dei martiri per molti giovani repubblicani, quelli disposti poi a imbracciare una pistola. In realtà non sono tanti, parliamoci chiaro, quanto il movimento repubblicano violento faccia presa nelle zone di Belfast, di Derry e del resto delle sei contee è tutto da verificare. Non c'è certamente il supporto che esisteva negli anni 70, ma anche fino agli anni 90, insomma, non stiamo parlando di Bobby Sands. È anche vero che palesi come dire, violazioni dei diritti umani, palesi accanimenti come questo contro Marion Price, insomma, viene a dire: ma voi alla fine date linfa vitale ai movimenti più di pancia, no? A quella che potrebbe essere poi una reazione violenta da parte di chi vede un idolo, un mito che viene ingiustamente imprigionato. Alessia. Certo, visto da qui, da lontano, effettivamente è così, cioè, perché si percepisce, si capisce che si percepisce da parte dei repubblicani una volontà britannica di colpire, nel caso di Marianne Price, una delle voci più autorevoli della politica repubblicana contraria agli accordi di pace. Però lo si fa, ripeto, in modo arbitrario, perché questa donna, ripeto, essendo tornata da poco da Belfast, avendo parlato con alcuni esponenti del 32 CSM, che è il gruppo politico del quale Marianne fa parte, è in condizioni molto gravi, soprattutto psichiatriche, affetta da una gravissima depressione e, secondo le visite degli ultimi medici che l'hanno potuta vedere, sono medici tra l'altro delle Nazioni Unite, non è assolutamente in grado di affrontare un processo. Ecco, non si capisce perché Londra insista in questa politica che potrebbe portare insomma a un inasprimento della situazione, perché se è vero, come dice il professor Brian, che l'unione dei gruppi del RAD e della RIA Lira non porterà quasi sicuramente a un incremento delle attività militari, tuttavia vorrei fare un paragone che non vorrei fosse giudicato azzardato, però no. In molti credo si ricorderanno che dopo la Bloody Sunday, insomma la strage dei paramilitari a Derry, quando i para appunto aprirono il fuoco su una manifestazione per i diritti civili e uccisero 13 persone, quella fu una strage, insomma. Però furono dei momenti in cui ci fu un arruolamento di massa di ragazzi tra le fila dell'IRA, ai quali chiaramente seguì una campagna di guerra molto intensa. Ecco, non vorrei che questa, come dire, pugno duro, diciamo, o esibizioni muscolari poi richiamano violenze e reazioni che magari non sarebbero con un'altra politica, diciamo, di soft touch, un po' più morbida. Cioè, se la situazione di Marion dovrebbe precipitare e volgere al peggio, potrebbe essere un motivo per il quale le giovani generazioni repubblicane, per quanto striminzite, insomma, preferiscano tornare a imbracciare le armi piuttosto che tentare il dialogo. Ecco. Grazie Alessia Lai per il tuo contributo. Noi stiamo per girare la pagina, per ruotare il mappamondo, vediamo se abbiamo tempo. Volevo però rispondere a un paio di sms. Il primo, che chiede di richiarire le ragioni di Cina e Russia pro Siria, argomento molto complicato, vi rimando, lo trovate sulla pagina Facebook alla puntata, la seconda, quella di martedì, in cui Carlo Gian e Alberto Negri hanno chiarito benissimo le ragioni di Cina e Russia, più che pro Siria, anti occidente e anti americane. Un altro sms che parla di parassitismo, attitudine, abitudine criminale dei Rom, facciamo finta che siano cittadini moderni. bello. Ogni volta che parliamo di Roma arriva un sms di questa risma. È proprio in uno stato civile in cui si dovrebbe parlare appunto di inclusione e di dialogo e non di discriminazione. Il tempo è quasi contato, niente WhatsApp, titoli di coda. Non mi resta che ringraziare quindi Miriam Lucchetti, Massimo Brugnoni in redazione che hanno confezionato e scritto con me la puntata di quest'oggi, Robby Scaltriti che gli ha dato la musica. In proposito, un sms chiede lumi su un pezzo, lo posteremo su Facebook. Da Giampaolo Musumeci una buona giornata e un saluto.